Abbiamo trasmesso. No, cosa c'è? Ieri siamo dimenticati, era martedì. Quindi? E non abbiamo festeggiato il Mardi Gras. Ah, beh, dai, sarà per il prossimo No, recuperiamo oggi, dai. Scusa, oggi è mercoledì. Vabbè, facciamo mercoledì Gras, dai, chi se ne frega. No, dai, capo, dai. Non cominciamo con le deroghe, sennò poi ma ci siamo dimenticati. Ho capito, però poi all'improvviso tu ti troverai nella condizione di poter dire che ci sono in una settimana 3 venerdì, 2 Mardi Gras e non si va più da nessuna parte, dai. Dai, Drago, per favore. Ti giuro che la deroga vale solo per oggi, facciamo così, facciamo tutti finta che oggi sia martedì. Tanto siamo all'asilo, no? All'asilo fare finta è la cosa principale, no? Vabbè, anche fuori dall'asilo, vabbè, quello. Dai, quindi facciamo finta che oggi sia... Ma no, ma con la banda e tutto. Voilà le Mardi Gras. Mardi Gras. Bien sûr, c'est le Mardi Gras. Scusa, Mardi Gras di mercoledì. Le mercredi, le Mardi Gras. Le mercredi gras. Sì, vabbè, però sempre sto macello di coriandoli. Allora, non ti preoccupare del dopo, Drago. Ci tocca pulire il macello dopo, dei coriandoli. Che tra l'altro, se tu dici canferi. Canferi. Canferi in inglese vuol dire? Sì, coriandoli. Coriandoli. E confetti. Quindi, si dice invece canferi. Comunque, non ti preoccupare, Drago. Puliamo dopo. Adesso c'è il bourbon. C'è il gambero stufato. Sì, c'è dell'altro bourbon. Sì. Con risultato poi di chiazze negli angoli di indubbia provenienza. Ma sempre basta da pulire. Con le lamentele. Buttati a capofitto nel Mardi Gras. Come faccio, capo? Io non sono superstizioso. Not superstitious. Voilà le Mardi Gras. Cosa c'entra la superstizione? C'entra, sì. Una cosa religiosa, cristiana. Una cosa, il martedì grasso. Ma certo, dopo la quaresima si può festeggiare. Quando finisce il Ramadan per i nostri fratelli musulmani. Sì, infatti, no? Trattali bene perché sennò. Voilà le Mardi Gras. E io mi chiedo cosa pensa uno che accende adesso la radio e sente sto voilà casino da New Orleans inneggiante al martedì grasso oggi che è mercoledì. Allora, il faut souligner que hier on a oublié de faire le Mardi Gras. E qu'on le fait aujourd'hui. C'est très simple. Complimenti per il francese. Grasse. Ma cosa grasso si dice martedì? Déjà. Ma come déjà, capa? Smettila di fingerti francofono e congeda la banda che hanno già sporcato fin troppo. Nouvelle Orléans. Sì, la pulzella d'Orléans. Giovanna d'Arc. Sì, Savonarola. Savona. Ebelin. Com'è Ebelin? Eh beh, Savona, Ebelin. E ora, bambini, ricreazione. Dai, Gito, andiamo dentro, dai. Dentro. E parlo io, Parlo io? No, parlo io, poi tu mi dici cosa vuoi. Prenditi il caffè, dai, amico, dai. Adesso ci vedono. Buongiorno. Ciao. Buongiorno, bello. Ciao, buongiorno. Bello. Sì, senta. Dica, ragazzo. Noi volevamo... qui c'è anche... Qui cosa prendiamo? Qui c'è anche il kebab, no? Prende kebab? C'è il kebab? Prendo kebab. C'è il kebab? Allora noi prendiamo... Kebab, Allora... Il mio paese è gitto buono, bello. Allora faccia... Allora io vorrei un kebab completo. Kebab completo. Con cipolla e... Una pasta asciutta, pomodoro. Pomodoro, va bene. Prendi il panino con il fondo, prendi. È una pasta asciutta. Fondo, dai. Un kebab completo e una pasta asciutta. Aspettiamo fuori io. Panino kebab e pasta asciutta? Sì, aspettiamo qui fuori noi, quando è pronto. Avanzato panino? No. No, avanzato panino, amico. No, avanzato panino kebab e pasta asciutta, perché è venuto un signore napoletano, ha portato via tutto. Allora. Di mezzogiorno è venuto, portato via. Sì, cosa facciamo? Qui. C'è anche il pesce, mangiamo il pesce, eh? Allora, no, abbiamo cambiato idea intanto, guarda, non importa, mangiamo del pesce. Il pesce, no? Io lo faccio. Una grigliata. No, non faccio pesce io qua, non faccio pesce, no, faccio c'è fuori solo scritto contorno pesce. Io. Fuori c'è scritto specialità pesce, tavola no. Calda, tavola fredda, tosta. No, no, portato via, portato in mezzogiorno, finisce tutto, amico. Pizza, allora, portato, il kebab è molto buono, ma non tengo. Le patatine anche non finite, e pasta asciutta finita. Amico. E lui anticipa già, capito? Settimana così prossima, noi non Egitto, facciamo... mangiamo tutto, regalo io, amico, non preoccupi. Settimana prossima, però, noi sappiamo, siamo bambini, un tempo in memoria, capito? Noi a questo punto... E qui, vabbè, facciamo le tu pizze. Fermi qui a mangiare, amico, facciamo... metto tovaglia, metto tovaglia, fermo con ragazza, metti giù in terra, metti giù... Borto caffè, borto acqua. Questa non volete è una ragazza qua? E qui non si riesce neanche a fare l'ordinazione. Borto focaccia, amico, ma ragazzo, borto focaccia. Allora, La focaccia. Allora, prendi focaccia e due caffè, dai, ragazzo. Ci buttiamo sulle pizze. Io oggi mi devo. Pizza! Mi devo trattenere. Prendi limoncello, ragazzo. Prendi anche limoncello, ragazzo. Dopo. No, che limoncello. Non gli altri. Siamo buono, bambini. Di arabi. E qui non si riesce a mangiare. Allora, ci buttiamo sulle pizze. Dai, le sulle pizza. Forno ancora acceso, forno. Perché questi sono egiziani. Ha acceso forno? Perché è finito tutto. Però, pizza, facciamo fare pizza. Pizza possiamo fare. Quanta siete? Due? Metto tua baglia per fermarti. No, ragazza. Prendiamo e andiamo via. Metto giù. Prendiamo e andiamo via. Vuoi mangiare qui? No, prendi? Vuoi pizza o no? Che questi qua, prendiamo la pizza, no? Questi qui sono egiziani, no? Prepara tua baglia per ragazzi. Gli egiziani sono bravi a impastare, no? E c'hanno una mano che è magica, no? E fanno la pizza buonissima, no? Il pastone è un'altra roba. Caffè porti dopo, limoncello porti dopo. Adesso mangiamo pizza, due. Ragazzi. Allora due pizze, tu che pizza vuoi? Pizza! Che pizza prendete, ragazzi? Allora, io... Una quattro stagioni. Quattro stagioni a pizza. Con triplo carciofino. Un carciofino. E una... È una pizza alla pasta asciutta, bianca con la pasta asciutta. Pasta asciutta come giuro di mio figlio, come mio figlio. Bravo ragazzo, come di mio figlio. Piace pasta asciutta, figlio. Pasta asciutta che... bianca. E ce l'ha. Ho no. capito, pizza e pasta asciutta. Ma pasta asciutta però, pasta asciutta condita, cioè pasta asciutta al pomodoro sopra la pizza bello, bianca. Su tovaglia, mettiamo tovaglia, bella, tranquilla, con fiore. No, quello magari veniamo un weekend. Mettiamo candela, tu ragazza mangiare tovaglia tranquillo qua a casa, amico. E la ragazza poi... Due pizze allora, prendiamo due pizze babarone, va bene? No, come peperoni? Tu hai chiesto peperoni? No, ti ho detto che ne parlo io. Non hai chiesto i peperoni? Prendiamo? Ah no, scusi, erano le quattro stagioni con triplo carciofino e la pizza alla pasta asciutta. Finito, bianca. Con kebab napoletano ho portato via tutto condimento. Ma kebab? Kebab è una roba araba, non è napoletana. Acciughe, mozzarella, olive, pomodori, tutto finito. Avanzato paparone. Se tu vuoi io prendo pizza paparone. Tranquillo, io regalo paparone. Ma pizza paparone? A te piace? A me piace, poi mi rimangono sullo stomaco. Però gli regala. Prendi due pizze paparone, amico. Allora faccio così, faccio le due pizze e i peperoni puoi tenermeli. Su tovaglia, mettiamo su tovaglia a parte e porti via. E tu tovaglia porto via, ci sono delle una o due, no? Facciamo i peperoni, facciamo così, me li metti a parte in una specie di... E da una parte due pizze, così ci sono distinti, poi così a piacere mangiamo un pezzetto di pizza e un peperone, capito? Ma, amico, tu prometti però che prendi pizza e non butti in terra, amico? La compro, quindi non la butto via, presumibilmente non la butto via, vado a mangiarla sulla panchina in cortile. Ma babaroni regalo, amico, non preoccupi, quindi io regalo babaroni, però tu non butti in terra, non è che... No, però i peperoni me li dà, no, ma non così però, me li mette da tutti i peperoni, me li metti da una parte. Metto tua baglia. Ma no, tovaglia, e qui forse... Da bere? Vuole prendere la ragazza per brandy di bere? No, la ragazza è un bambino, questo è Gildo, cioè mio amico. Cioè, cosa vuoi? Cosa bevi? Coca! Allora, una Coca-Cola! Brandy, basta sugo al bianco, come mio figlio, e Coca-Cola, uguale di mio figlio d'Egitto. Fa piacere, capito? Le ricordi suo figlio dell'Egitto, perché soffro di nostalgia, capito? Allora, due pizze, e da una parte due pizze, mi mette a parte, a lato, i peperoni. Babarone, avanzato babarone, amico? È andata, avanzato a cucina, babarone? Peperoni, ma... Finito? Ha finito pizza, finito pizza paparone, amico. Finito paparone. È finito peperone. Portato via, finito. Avanzato fanocchio. Avanzato pizza con finocchio. Finocchio, cioè, ma c'è finocchio crudo, no? No, per fare... finocchio finocchio paese d'Egitto buono con sale che è cotto. Come cotto? Finocchio cotto. No, come no, allora qui non va bene, tu allora mangiamo in mensa. Siamo scappati via per mangiare. Andiamo via di qui. Aspetta, amico, che metto tovaglia. Dove vai? No, che tovaglia? Dove metto tovaglia e metto giù Coca-Cola. Dai, bene. Con pizza paparone trovato, regalo. E fa questo qui. Regalo pizza, amico. Torni qui. Uguali di mio figlio, guarda. Scappa via, lasciato qui Italia. Casino di Madonna, Egitto. Lui è scappato. Io Italia. Casino, italiano. Prende pizza, vendo biglia su tovaglia. Nessuno vuole capire. Prende napoletano, mezzogiorno, viene, prende, porti tutti, non paghi, No paga, butti in terra. Io stufo Italia. Io stufo. Io torno in mio paese da Egitto, Mancano 86 giorni alla fine del mondo.